non si capisce più niente qua dentro, ma dimmi tu, respirano da bocca dal culo questa gente. Non è possibile. Ma vi inteso la C meno qualcuno. Gappa. Altro che erano tutti qui tutto. Oioi, Luca! Sì, ho capito. Ciao Mario, buonasera. Non ti avevo riconosciuto. Ok Mario, sì, mi interessa, perché ne avevo parlato una volta con Tore, mi aveva detto c'è di qualche stock lì, di roba, eccetera, eccetera. Ma vediamo Mario, perché c'è un sacco di gente che sta cercando antenne, io in particolare. Se tu hai qualcosa in V e in U, le prendo volentieri, perché io di quelle antenne ne devo mettere altre due o tre, quindi non c'è problema. Ok dai, adesso appena sistemiamo ti facciamo un fischio, o magari telefono a Tore e venite a vedere, dai. Ascolta, e quell'antenna come si chiama? La cornutella ce l'hai? L'antenna quale? La cornutella, quella che c'è in testa. Devo vedere, perché ne ho un macello, sono un po' sparso in un magazzino, ma nell'altro è un po' laboratorio, e adesso metterò tutti insieme. La cornutella mi ti ha detto, l'hai riconosciuto chi è? Te la ricordi Mario la cornutella? Quella che abbiamo costruito? Ah, ehi, adesso ho capito, Vabbè, meglio tardi che mai, se tu lo sei incoglionito. Vabbè, Alessio, ha influenzato forte. Vedo l'antenna clave, mi servono. Quel telefono, se hai il problema, c'è un telefono da costruire di magazzino per riportarlo. Se non è molta la roba da stivare da qualche parte, te la posso lasciare per qualche periodo. Hai capito chi è Mario? No, non ho capito. Non è nessuno, è quello che gli ha rotto le balle a farti portare un videoregistratore, valeva un euro. Videoregistratore? Dalla fiera. La bagazza tu. Beh, come stai? Io sto bene. Dove sei? A casa? Sì, sono a casa. Mi ha tolto così, ti riposi, dai. Cazzo, per non farti la radio. Tu sei, va bene, cazzo piatti, sei tutto di brisce. Ascolta, sto organizzando per risalire una fiera, ci vieni? No, adesso non lo so, ormai, c'è un casino di cose da fare. Passa a trovarmi il capannone. Ok, gli appasso, dai. Mario, quando è la fiera? Ma a luglio vai o adesso a maggio? No, io ho l'intenzione di andare sabato e domenica a Gonzaga. Ah, sono quelle balle. Adesso siamo abituati a quella di Genova, poi vabbè a Cosio, a come si chiama? A quella che è crollato il capannone, ma anche tu ci. Quella di Genova partecipo io, sto prendendo lo stand. E allora ci vediamo lì. No, oh, quest'anno vengo. Abbiamo già organizzato. Quest'anno non ce ne per nessuno. Sto già mettendo in cuccetta perché voglio andare. È già un paio di anni che non ci vado. Prima andavamo con Walter, con la greppa, adesso. Vabbè, Walter a cui. Comunque già ci sentiamo e ci organizziamo. C'ha il mio numero Antonello, quindi Mario non ci sono problemi, poi vabbè già lo recupero il tuo, non è un problema, lo dico a Tore, me lo faccio dare. Sicuramente c'è anche il Walter. E ci vediamo, perché antenne le devo prendere, la verità. E ho preso una X7000 che devo ancora piazzare perché il tempo era brutto. Mi serve altre due bipande e poi vediamo quello che c'hai, dai. E qua c'è Antonello che mi sta corteggiando perché ho una gran play da autometri e mi sta rompendo le balle anche oggi, dice dall'a me. Ma a me non mi serve l'autometri, dagliela pure, a me mi serve un'antenna piccola, efficace da mettere all'impianto a Perfuras, perché ci sono un sacco di amici che parlano, da Chiaramonti, dalla Aero, la Marti, cioè tutti i camionisti che stanno in giro così. E quindi tocca stare sempre seduto in macchina a parlare, invece me lo metto in ufficio, quello grande che ho, e con l'antenna sto dentro e come che sia a casa, capito? Solo per quello lo volevo fare, perché io ce l'ho un'antenna, c'ho una Super Stella 24 radiale, gliel'ho detto a Antonello, che è nuova non l'ho mai usata. Però mettere quella lì è troppo ingombrante, ci vede troppo, eccetera, non è che mi dicono niente, ma mi rompo le scatole, capito? Ho capito, in effetti ci vuole spazio, poi ti rompo qualcuno ignorante e ti dice mi disturba il televisore e quindi meglio mettermi una modesta e che esca bene. No, oh, beh lì a Perfua c'è poco da disturbare perché all'impianto dove sono io non ci sono né televisore, né case, né niente, che è in campagna. Quindi posso mettere anche un traliccio di 40 metri, non è un problema, è che me l'ho prestato per farmi vedere, insomma, con queste attrezzature, dice, ma io che ho giunto a travagliare o è giunto a far vedere la radio? Capito? C'è sempre quello un po' stronzetto che fa queste battutine. Poi io mi incazzo, le metto la portante e allora è meglio evitare, capito? Non sa mai che scudia che colpo di Gricco, che colpo di Dubu. C'è anche Michele comunque, vediamo un pochino. Michele, lo senti a Mario, sì? Sì, Mario, buonasera. Io sto ascoltando, dai, salutami anche Walter. Sono qua, dici che sto facendo una letterina e li sto seguendo, dai, riprendi qua. Vai Mario. Ok, allora restiamo d'accordo così, dai, aspettaci un attimo libero, vi chiamo, magari ci sentiamo e vediamo un attimo questa situazione delle antenne, ok? Ho cambiato il telefonino, il numero tuo mi pare non ce l'ho, lo voglio scusare, non ti viene bene. Delle antenne, claro, deve piazzare. Ascolta, tu mi fai così se lo registrano, passa, dai, però non per baracchino, ti chiamatelo là. Ma basta mettere lo squillo, facciamo fare, se non morire, boh. Antonello, ce l'ha il tuo numero telefonico? Se ce l'ha, faccio il... ti chiamo e lo memorizzi, ok? Cazzo, ma il coglione, se mi hai chiamato 10 volte, già lo so, a Milano, ti trovo l'altro il numero, allora? Chi sei, Walter? Ho detto che c'è l'orecchio peloso, qui vicino a Antonello, non si vede tutte male, se ne ha, Walter sono. No, non c'è problema, il tuo ce l'ho, là, ce l'ho memorizzato dal mio telefono. Sì, siccome non avevo il telefono, oggi ho memorizzato anche con i TDM, mi pare che non c'era nella scheda, dunque dopo se mi fanno squillo, solo lo scuso non lo memorizzo. Per capire. E adesso ti chiamo, dai. E qui un baracchino in piazza tra la casa, fatti sentire. Ok, 7351 a tutti, adesso ti chiamo, poi ci risentiamo prossimamente, ok? Papa Mario, d'accordo, dai, rimaniamo d'accordo così, il tuo ce lo recupero da Walter, io non c'è problema, mi faccio dare il numero da Walter e così lo, ti chiamo e ti memorizzi anche il mio, e così ci sentiamo, ci vediamo e facciamo il business, perché secondo quello che hai metto d'accordo con Walter e ci portiamo via tutto. E chi se fuori di Gabbo, quello prende viene col camion e si carica tutto, perché il DHF ne è un casino. A noi ci servono, non c'è problema, servono a lui, servono a me, servono ad altri, quindi non c'è problema, già metto d'accordo con Walter, dai, vai tranquillo, chiamalo e poi già mi faccio il numero da lui. Ok, ci risentiamo quanto prima, dai, salutami tutti. Ciao Mario, ciao. Ok, riprendo Michele. Michele, come mi stai ascoltando? Bene, ciao Mario, stai chiudendo, buonanotte. Sto ascoltando bene, un po' saturino, sì, ma un po' nasino, ma forse l'apparecchiatura non va bene per me, ma che stai usando? Confermi, Claudio. Ma è Walter quello, non io, chiedo a lui. No, confermi nel senso, come lo stai ascoltando tu qua, non è o meglio di me? No, beh, io l'ascolto, lo so a lui, non è al top, comunque riesco a ascoltarlo benino, va, perlomeno qua già arrivo. Sono al top adesso, sono gatto, è diverso, ma come arrivo al cambio, vedrai. Te l'ho detto già, Giugeli, secondo me ti conviene usare quell'altro microfono che c'è in alluminio. Quello in alluminio è micidiale. Alluminio. Alluminio, alluminio. Ah. Sono la caldella di bulloniglio. Ecco, adesso con i panini concentrato. Beh, era una cuba FM, ma nel comune non è messo. È l'ombra. Ah, non potevo più di questo mit che se l'avete. Però in FM quella radio io la riscontravo, ultimamente è bassa in FM come modulazione. Boh. Prova a passare a vedere Natali. Ma lei ve ne FM. E proveremo. Prova a vedere. Ciao Natali. Io se non vedo là come si muove, poi metto il fatto che FM rimane fermo. Ascolta Natali, ma lo conosco, la conosco la provenienza, perché se non conviene forse era il mio. No, no, è stato preso da fuori questo. Ma vabbè. E lui, ma dite nel microfono. No, il mio più è che sto scimignato. Non è stato manipolato. Perché il mio più gli era abbastanza fastidioso, acuto. Io non so, l'avranno toccato sicuramente. Ma è male, era manco non ti sento la reggi, mica. Sì, infatti, tu pensa, quando ce l'avevo io, ancora non ero bravino al malestare, quindi avevo paura di toccarlo, non l'ho mai toccato, ma sai quando, cioè io non lo sentivo, ma sai la gente mi stressava la notte, non toglie il dip, no, non va bene, perché in effetti era molto penetrante. Lo so, perché quando uno in cuffia ascoltare la notte, cioè, perché di giorno si può fare tutto quello che vuoi, dalle macchine eccetera, ma a casa è bello ascoltare modulazioni insomma mediocre, dai, non ti fracasseggia in orecchi, ma quando c'hai già il beat, oppure l'eco, oppure tutto il spirante di gasini, è un po' fastidioso, no, questo va bene l'eco, cioè il beat, questo è nata lì. Si sente però non ti sente la reggi. Sì, no, è molto ascoltabile, diciamo. Non sorpassa il livello di modulazione, quindi se ti regoli per la voce poi non sfruttare va bene. Vabbè, come era per questo ritorno NS200, nel mio vecchio amore a quello lì. È un bel apparecchio, perché l'altro, il Midland, non serviva a niente, questo me lo tengo quando sono con il cazzo. Almeno posso avere l'FM, lo STP, posso avere tutto. Invece con quell'altro lui era macchetto. Infatti è buttato lì. Coricato pensi di solito? No, di solito no. Magari la sera verso quest'ora sì, mi sdraio e lì. Dopo pranzo. Almeno c'è anche l'apparecchio vicino. Infatti, noi non mi metto più nel comodino, perché se non metto nel comodino ho perso. Infatti c'è il televisorino 4 pollici collegato con Sky, ma accendo 10 minuti mi sono già addormentato. Beh, io non è abituato a si addormentarsi. Io immagino anche Michele che ho il tavolinetto, diciamo la letto lo stesso con 4,40, 60, tutto. Eppure a volte sto ore e ore ascoltandovi, non mi addormento, niente da fare. Se io mi addormento quando ci sono, quando dico io, capito? Invece c'è gente che si addormenta ascoltando, oppure no, io non riesco a niente da fare. Se conoscevo nel comodino anni fa mi ricordo che c'erano sempre questi di notte, che c'erano i nottambuli, no? Non so se vi ricordate luce, boh, c'erano un sacco di gente strana che di giorno entravi i pizzilli, tutti entravano solo la notte. Quindi allora che mai ne addormentavo, poi mi svegliavo durante la notte, c'era studente, non si nervoso, c'era interrogazione, non dormi bene, pizzilli, beh si lanciato la radio, accendevo e c'erano subito le ruote, ma io non entravo per non disturbare qua, ma rimane pure all'ascolto, ma fino all'alba. Ma lo sai quante volte io, ma ti parlo che non ero neanche radioamatore nel 90, 88, 89, stavamo sino alle 3 e 4 del mattino sul canale 20, a volte stavamo sul 23, così, e facevamo queste Iottino, il Gabino Celentano, insomma un po' di gente eccetera, stavamo sino a tarda notte. E poi chiaramente la mania è passata un po' a tutti, diciamo, adesso a una certa ora tutto silenzio, ma perché siamo pochi, siamo rimasti con le poche persone che le piace fare attività radio e basta, gli altri ci sono tutti vera dello boom. Ma ti ripetete di una cosa, adesso se tu accendi la TV, anche tardi, c'è sempre qualcosa. Prima io mi ricordo che i programmi finivano, anche se c'erano le TV private, finivano presto, con una certa ora non trasmettevano più. Quindi tu se non avevi sonno, non avevi niente, cosa facevo? Ti ascoltavi la radio, un po' di musica, o accendevi il baracchino, se c'erano altrimenti non facevi nulla, perché non facevi nulla. Adesso ci sono più distrazioni, c'è la TV, c'è Sky, c'è il PC, ci sono mille cose, quindi non è diventata una cosa così indispensabile la radio, dico il baracchino. Lo so. Però dico, cioè voglio dire, c'era più gente, a Sassari su 40 canali, per dire, erano occupate 3-4 canali, sul 14 modulavamo, sul 5, sul canale 5, sul 23, sul 21, chi andava sul 40, sul 38, cioè c'era gente, capito? C'era più bordello, più macello sicuramente, però c'era più gente, ma ti parlo degli anni 80, 85, prove tecniche di trasmissione, chi crepava le antenne, chi crepava valvole, letti, capito? Adesso è diverso, però dico il boom della radio è rimasto sempre, perlomeno io ho sempre continuato, ho sempre fatto, mi sono chiaramente preso quello che dovevo prendere e poi niente, poi ho fatto quello che dovevo fare, ma molta gente invece ha mollato del tutto, là. È vero. Sì, era un condominio prima, perché anche se c'erano tanti canali, poi alla fine si saltava da un canale all'altro, poi quando si bisticciava, anche ovviamente quando i canali, 40 canali, quando c'è troppa gente, diventano stretti a tutti, e passa sull'uno perché si avvicinano i splatteri, e vai là, abbassa la cadeniale, mi stai disturbando, si rileva e si bisticciava anche. Io ero sempre lo stesso, no? Poco mi interessava, però sai, io baracchini ne ho usato pochi. Io quando sono arrivato a Sassari nell'83, perché prima era Porto Torres, ho piazzato le antenne lì a Carbonati e subito ho messo il 757 GX2, se ti ricordi, poi sono passato a Richievut, quindi tutte le linee 430, 4.40 l'ho avuto molto dopo, però ho sempre avuto radio che non mi dava fastidio nessuno, è vasta volontà, certamente che andavo in cameretta. Sì, io non ricordo come disse il GX2, non ricordo. Che entrambi come torre di controllo, se non ricordo male, o come sparviero? Come sparviero entravo, poi Giovanni Camposanto mi aveva messo torre di controllo perché arrivavo sino a Macomere, faceva un casino della Madonna, tutta quella piana in campera era un casino, e quindi da quando viaggiava lui, Michele, Mario, insomma tutti gli amici camionisti, ne avevamo il settore di controllo, e lì è andato avanti così. Adesso la torre non c'è più e sono l'uomo del monte, va? L'uomo del monte ha detto basta. L'uomo del monte ha detto che le pere sono pronte, capito? Le pere sono pronte, bisogna farle scendere dall'albero. E allora? Allora, Camposanto lo vedo di tanto, ma infatti cos'è che gli era successo? Un cieco a o qualcuno? Era successo? Era successo qualcosa con qualche donna, non so con chi, adesso non mi ricordo. Qualche donna? Sì. Non so questo, so che era stato male, non sta neanche più durando, so che era stato male, ho avuto un infarto e se l'ha vista molto brutta, e niente, non sta neanche più durando, è sempre lì a Porto Torres, il responsabile del parco mesi praticamente, seguo un po' queste cose, non so niente di questo. Io non so, la moglie aveva saputo qualcosa. Vabbè, comunque, Maracchino poi qua ha detto non è accende, ma non è una grossa attività, come parlava? Walter. Dimmi. Ti vuole Mario? Dimmi Mario. Questo non passa. Mario, c'è Walter, te. Io? Dammela, signora. Io non parlo alla radio, ci sto male 10 minuti come te, tu sento la radio qualche antenna vendita, poi ti dicevano che l'ultimo fattore e poi già la vendevi, avanti. Mario. Sai come questo ambiente, questi baracchini, mi butti sempre. Chi c'è la pedale dell'MS200 a Sassari? Io. Walter, poi c'aveva, come si chiama, Gianni Brunessone e Buonissà. Sì, Vittorio Giove. E Vittorio Giove, bravo. Roberto Quadrato ce l'aveva anche, oggi di Vicenza. L'ho conosciuto io nell'80, Roberto con l'MS200 ce l'ha ancora, ce l'aveva nella regatta. Vabbè, è tutto molto lontano. C'era anche Roberto Meccanico, bandito, mi si Mi ha fatto bene prenderlo, come ha fatto bene già nel dopo rumore della Natalina, tanto non lo usavo, invece la Natalina del comodino lo ha trappuda bene. No, vabbè, ti sto parlando di quegli anni in cui era uscito con l'apparato. È sempre attuale, è un apparato che secondo me è molto attuale. Io non ne ho mai avuto di... Sì, barattini bellici, ma cugino, io quando ho già fatto questi che non prendevano colpi e viaggiavano alla grande, non ce n'era più nessuno. 735 della ICOM, io cosa non ho già avuto, per carità. No, barattini no, mica... Era una lotta allora, è una lotta adesso, ma tu immaginati se io dovessi mettere qua il baracchino con tutto il lucacino che viene, che al monte, che si spostano da un canale all'altro, stanno saltando a destra, a sinistra, un po' sul 10, un po' sul 21, un po' sul 40, sul 30, 26, 28, e a me mi vengono gli attacchi di meningite e quindi, capito? Invece ognuno si può spostare dove vuole, perché io non sento manco la mosca volare, proprio zero sotto zero, ma non che non ti metti nel canale di accento, se ti metti sul canale 11 ti sento, ma se tu sei sul 15 modulando, io sono sul 10, puoi essere anche vicino, io non ti sento, capito? E per me è molto importante quello, perché io soffro di cose, ho capito, due attacchi epilettici e quando mi disturbano è un casino. Ah, io non sento volare una mosca, tranne che quando entra Manolo. Se entra Manolo allora siamo vicini, ma se no non sento volare una mosca. Ma non cosa, con quel baracchino che c'è adesso? Esatto. Con il baracchino che c'è adesso o con quello grande? Con quello piccolo. No, no, Natali, non ti credo. Lui due qui biglia che c'è il radio. No, ma i baracchini quando sei così, ma tu già sei lontano, Natali. Tu sei lontano da noi, capito? Tu sei lontano, tu sei in quel fosso, lì sei coperto, magari sei anche protetto, ma tu prova a venire con quel baracchino qua dove sono io. Altro, devi andare in appetti, devi andare, ma buffonendici, no, no, no. Quindi, grazie, sì, ma con questo neanche se vengo vicino mi sento tutti offesi. No, già nei primi si c'è attaccato, come sono io già di più lungo così, però a distanza non sente niente, l'ho usato per molto tempo, almeno mi era discreto, come il Comfort, il nostro Recurt, il Surf, tanti altri, dipende. Poi guarda che Curti permette il 781 e altri, se si è attaccato, si è attaccato, i battimenti ci sono. Mario, sì sì, Mario, attento Mario, molla la forchetta. Ma niente, no, guarda, io non sento niente, non sento nulla, niente, né con questa, né con la 440, con niente. Mentre giorno avevo provato il tuo, il Cobra, cazzo, mamma mia, mi veniva ad attacchi epilettici, prende un bel ricordo, perlomeno qua io li sento tutti, forse perché sono giù, l'antenna è alta e ce li ho tutti, io ce li ho tutti intorno, capito? Da verso Antonello, verso su nella zona alta, qua a fianco, verso la Teroce e verso dove sei tu, io sono in mezzo, quindi mi sento tutti col baracchino. Con questo manco ballante camera me ne basta. Cos'è detto il Cobra? Sì, mi ha prestato un Cobra bellissimo, fatto un giorno. Esce molto bene col Tamek 3, molto molto bello, della serie Magnum, quella roba lì, però questa è la base con due strumenti, molto bello, però cazzi, colpi che prendeva. Io quando facevo DX 20 anni fa, con gli inglesi, sempre con gli inglesi, avevo tutti il Cobra, ma non ho mai visto questo Cobra, mai. Serpente ce l'hai presente? Quella è tutta un'altra cosa. Quello vale Cobra 148 GTL, è possibile? Sì, quello che c'ha Walter, c'ha il GTL, che è il gran lusso, e poi c'ha il TL, LS, come più o meno le macchine che sta facendo la Fiat, no? GTL, GTS, S. Come andava bene questo, un buon bullattore e ricintore come di questo baracchino Cobra? Ma io va bene, io quello del Cobra vintage, quelli vecchi, 30 anni fa. Sì, era un baracchino vecchi, io quando faccio i primi DX con gli inglesi, che c'erano 7-2 anni che c'era la preparazione, tutti i giorni con l'Inghilterra. E io sento i dico, c'era detto come sia di lavoro, Cobra, no, sono il Cobra questi qui. Americani sono Cobra pieno, anche gli inglesi, Cobra, ancora, io ce li ho tutti, ce li ho tutti. Vabbè, evidentemente funzionavano bene allora, ai tempi dell'MS200. A volte ce l'ha tutta quella serie, veramente, l'ho vista io, li ho provati, qua, provati da lui, vanno molto bene, però ti ripeto, io col baracchino non so stare, no, non è una cosa che mi è mai piaciuta, ma non da adesso, da, se ben ti ricordi, Michè, da quando ero già, la mia figlia era piccolina, io ho sempre usato questo tipo di radio, proprio per evitare i fastidi, le cose, gli splatter, me davo un beh, ne ho sempre dato, ma ne prendo molto molto pochi, ma occhio anche metti sotto casa, perché no, non sento niente, boh, forse la radio è selettiva, non lo so, è nuova, funziona bene, ma anche l'altra che ho, non sento niente, mentre vedi il 920, essendo un digitale, magari due o tre canali ti sento, questi analogici no, non c'è scritto di poterli splatterare. No, ma neanche io con questi qui, con 14 con 95 non sento niente, manco se passa qualcuno in macchina sotto col lineare, giusto se stai nel canale adiacente, oppure qualche persona rara, dove si sente un ronzio, come ti avvicini ai canali, ma un ronzio leggero, cioè se stai parlando con te arriva a sentire col 3 e 4 lo senti lo stesso, tutto che ci deve essere il RM0 per sentirlo, ma altrimenti nulla. No, sono soddisfattissimo io. Soddisfattissimo, ricordi quella linea 102 che avevo, la linea 102, dice che bella era, quella volata, la linea dell'820, dell'830, il 920 aveva avuto il 930, tutte linee favolose, addirittura andavo al 27 anche con la linea Drake, la 4C, figurati. Perché Carlo mi aveva modificato, mi aveva tolto la scuola meccanica sul trasmettitore e aveva messo il frequenzimetro. Non so chi ce l'ha quella, non è che ce l'hai tu, no, la C col frequenzimetro. Vabbè. Sì, sto domandando se cosa vuoi dire, che sono su questo modo le partenti come bevi. Cosa stavi dicendo l'ultimo pezzo? Ho detto che io andavo anche in 27 con la Drake, però col frequenzimetro, anziché la scala meccanica sul trasmettitore, Carlo mi aveva messo il frequenzimetro. Poi non mi ricordo se l'hai volata a Marco e Marco l'aveva venduta qua oppure l'aveva venduta fuori. Non è che ce l'hai tu, no, una Drake 4C col frequenzimetro? No, io ho le mie, ne ho 4 di linea Drake, le ho date tutti, anche il 27. Comunque il 27 i più belli sono quelli che c'è in più ovviamente, il Tocacci 424, Constat, l'MS200, il Simba che è fantastico, e la Fayette terza per 16-840. E il Cobra, ti farò vedere appena mi arriva il 2000 GTL qua, con la condizione come 440. Oh, bello, fammelo vedere, lo sai, io sono amante di queste cose, già va bene. Ehi, caro Michele, a un certo ordinario radio non mi sono passato in mano, ma radio che era anche difficile usare, perché io tu immaginati, se ben ti ricordi in 27 sono uscito anche col coso, con l'820, che era della Trio ancora, il tempo l'820, il 820, 830, poi hanno saltato l'840, hanno fatto l'850. E poi il 9.30, no, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50. 9.50 non l'ho provato, ma non l'ho mai avuto, sinceramente. È l'unica della scuderia Kenwood che non ho avuto proprio mio, però l'ho usato, l'ho provato a casa, l'ho tenuto un po', poi non era il mio, però quelli che ho avuto io, guarda, ti dico che non erano facili, soprattutto quelli della serie 820, 830, quelli erano con lo stadio finale a valvole, transistorizzati ma con lo stadio finale a valvole, le camettici, e quindi dovevi fare il preaccordo e l'accordo prima di andare in trasmissione, come il 902DM, va? Però scarpe erano molto selettivi, avevano anche una modulazione bella corposa. La bomba erano, guarda, ti dico, erano una cannonata, io li ho usati allora col Tame più 2 da tavolo, col Tame più 3, la prima serie quella grigia, l'NV più 4 ancora manca in cisterna, poi avevo provato a attaccare la Donis, avevo fatto una modifica con l'MD1 B8 su quel tipo, perché erano tutti connettori a 4 quelli, quindi facevo gli adattatori e li provavo. L'unico microfono che andava bene era il TANF 3, non c'era Cristo, era una bomba. Infatti molte volte quando entravo allora ci faceva anche la banda nera, no? Con la fascia all'occhio, e quindi quando entravo dicevo: ma che cosa stai usando? Sto usando un 920 o un 820, secondo quello che avevo, perché ne avevo 3 o 4 radio pieno, con un TANF 3, non ci credeva nessuno, chissà cosa pensavano fosse. Però erano bei tempi, radio a tutto motore, appassionatissimo. E oggi mi sarebbe piaciuto avere tutte quelle radio belle, tutte in linea, in collezione, tutta la serie 8, tutta la serie 9, quella serie lì, erano troppo belli. Il 950 mi ricordo che mi piaceva molto, scusa, il 940. Sì, il 940 ne ho avuto tre 940, uno addirittura l'avevo comprato nuovo a Mario Nottari, 940 TL 922, mi pare che, allora vabbè, qualche spicciolo già c'era in circolazione, però un capitale, mi sembra stato un anno e mezzo, due anni pagando, non mi ricordo, perché una parte l'avevo volata subito, il resto l'avevo volata a rato, ma era favoloso. E poi c'erano tutti quella serie, vabbè, a parte, che sono sempre ancora tutt'oggi fantastiche, a me piacciono moltissimo. L'unico che mi sono tenuto è il 101 Digital, però io ho, della Sommercan, neanche Yaesu, Sommercan, che è molto bello, molto compatto, a volte c'è tutta la linea completa di quello. Io invece c'ho solo il trasmettitore e il ricevitore. L'unica vecchia che se tu la vedi è imballata, è nuovissima, non c'è un graffio, è lucida. L'unica mi sono tenuto quella, e poi un stazione base VHF, sempre di quegli anni lì, molto grande, tipo 940, è tutto transistorizzato, digitale, però è a passi, capito? C'è il display che lo commuti, e per dire cambi megahertz, poi cambi kilohertz, cambi gli hertz, capito? Così. E c'è tutto digitale rosso, con due strumenti, molto bello. Le uniche radio che mi sono rimaste sono quelle lì, beh. Sono rimaste più attaccate. Ma di questi apparecchi HF e Valvoline, e producono ancora, qualche cosa li produce ancora, o proprio se sono estinti? No, mica non credo, io avevo il 902DM e l'ho dato a Franco Delta 1, l'ho regalato a Franco, perché lui era appassionato, le piaceva e gli ho dato a lui, a Franco Delta. E poi avevo due 7B, uno lo stesso l'ho dato a Franco Delta e l'altro l'ho dato a Mario Masse, poi cos'è che avevo? Non me la metto più, comunque tutte quelle radio valvolari eccetera le ho date, così fatto cambio di qualcosa, o vabbè, con Franco abbiamo fatto un'attivazione di tutto computer nuovo eccetera, quindi ci ho preso tutte le radio che le servivano, che le piacevano, e sono contento perché ce le ha lui e le fa funzionare bene. 902DM lo usa anche qua, ma è una bestia, c'ha più di 200 watt quella radio. Sono veloce anche Walter, vero va? Che cosa io? 902DM. Sì, ce l'ho completo, 901, c'è anche il 901, vale un po' lavorato, ma non puoi averli tutti, non bastano più 180 metri, ci vuole un capannone. Troppo grande Michè, sotto sì, volte te l'ho detto, ce li ha tutte quelle radio. Lui c'è addirittura tutta la linea completa, anche con l'analizzatore di spettro del sì, Pamela. C'ha il 101 ZD, che è molto bello, io l'ho avuto quello, però solo il trasmettitore. Lui invece c'ha tutta la linea completa, Michè, col suo microfono originale e anche l'analizzatore di spettro, che è bellissimo da vedere, se avessi avuto poco guai, quelle radio sono mondiali. troppo belle. Poi c'è il 901 che è l'adatto e il 902 DM in linea completa, mentre io c'avevo solo la radio e basta. Poi la mia era il DM2, completa, con 60 metri, tutto, AM, FM, tutto. E l'ho data a Franco, l'ho usata a Franco del Tauno, quella. Ti ripeto, l'unica che ho ottenuto, perché mi è sempre piaciuta bella, è il Sommer Camp, il Digital 101, il 101 Digital, quello ce l'ho. E come quello che c'è lui, il ZD, solo che questa è la versione che hanno fatto dopo, e basta, l'unica è quella lì. L'FT-101Z1 ricordo benissimo, perché quando hanno comprato l'MS-200, io quando ho preso l'MS-200 avevo 12 anni, ragazzi, 12 anni, ero già in cerchio a provare con la radio. Io forse sono uno dei pochi che ha preso la passione a 10 anni, e con 10 anni con le portatelini uscivo tra canali, e a 12 anni ho iniziato a fare DX, me l'ha preso male. Quando volevo l'FT-101Z1 nel catalogo della Marcucci, che forse ce l'ho ancora conservato, cioè lo guardavo come una persona se guardava una Ferrari F40, non mi potevo neanche avvicinare a una parte del genere, però lo guardavo, scritta sì, non ricordo, dei tempi. Mi ricordo, le stesse cose, io lo facevo con l'FT1, con lo stesso pensiero, per l'FT1, FT1, lo ricordi? Io, tu dici che avevo 12 anni, io ne avevo 10 quando ho iniziato, nel 68, comunque figurati, avevo poco più di 10 anni, qualche mese, è passato il tempo, è passato il tempo, lo ricordo con piacere, adesso l'unica cosa si dovrebbe un po' ampliare nuovamente, è che entrare sempre e stare qui in ruota sacri un po' per me diventa più paranoico, no? E mi ci sta se dovrebbe, però non mi piacerebbe fare anche poi, comunque c'è qualche volta le stazioni Alghero che entrano, c'è il Salvatore Sappalmarla, ma se ci fosse più varietà, come prima c'era Briscolone Barisi, gente Santa Teresa, Moro, tutte le parti, sarà diverso, capito? Quello che era Francesco Briscolone, ci accompagnava tutta la notte quando viaggiavo, lui ci accompagnava tutta la notte, per carità, vabbè, molto Francesco, grande, grande personaggio, molto, molto in gamba, l'ho conosciuto anche dormito a Calci, avevamo alle 2-3 di notte, era sempre in radio. E poi ho avuto Michele, non so se Walter li conosce, il Swan, la linea completa del Swan 700, era una bestia, dava 700 watt quella radio in banda laterale, c'era il Swan 500 e il Swan 700, e poi l'FT1 lo stesso l'ho avuto anche io, e quella poi, se ti ricordi, io quando sei venuto tu a casa, io trasmettevo lo 757, avevo la linea completa del 102, però del 102 digitale, quello stadio finale a valvole. Te la ricordi quella grande che erano due pezzi, anzi tre pezzi, era il trasmettitore, poi c'era il VFO separato e la colonnina esterna, e la usavo con l'MD1B8, te la ricordi quella? C'ho anche le foto io, c'ho tutte le foto delle radio che ho avuto, quindi sono documentabili. Ora dicono che tu usavi il GX2, però ancora non ci conoscevamo. Poi quando ti ho conosciuto, quando mi hai ospitato alla stazione, forse avevi già il Kendo, mi sembra. Ah, io ho spugnato i baracchini che avevo da volare. Ciao Tino. Basta la compressione microfonica che si chiude a posto. Mario. Ma vabbè, è Walter, ciao. Esagerata. Siamo con Palmare. Adesso va un po' meglio, ma all'inizio hai saturato, distorcevi, andavi in crisi mistica. Mario, aspetta, Mario. Ma è strano questo Mario, ti ha chiamato e poi è sparito. O gli è mancata la luce? Gli è mancato l'aleno. Sta ingozzandosi con Antonella Pompone. Vabbè, aspetta un secondo. Ciao Mucolo. Buona. Non si sento Franco Delta 1, che anche lui sta facendo sistemi di allarme, perché ha detto che la notte si sveglia incubi, allora è meglio che suoni l'allarme per svegliarlo. Allora, Sì, ma può darsi che sia lì, ma c'è un momento, dico ancora, sto aspettando, Ho capito, gli hai dato il Cimba, cane morto che non si altro. Ma funziona. Il Cimba, mia moglie. Il mio baracchino, mi chiede. Conosci tu hai Cimba? Sono due volte nel 9.40. No, mai sentito. Mai sentito. Ciao, ti nomiscolo comunque. Comunque volevo dire a Claudio, a Walter, quando c'era il 101 ZD era non plus ultra per me, però tu quando uscito il FT1 era fantascienza, ce lo guardavo questo da lontano, mi incattavo, mi dicevo no, questo non ci sta neanche nel mobile. Ah, io l'ho avuto l'FT1, Michele, ma poi ci vedo lo ricordi, c'era la fotografia. Ma ciao Michele, ma l'FT Claudio? Sì, Tino, tu te lo ricordi quando ero in cameretta di Ilaria, quando era Carbonati, del radio? Sì, sì, ma non mi ricordo io quella linea. Perché Michele, quando è venuto, mi sembra strano, perché in quegli anni lì, guarda, io avevo più radio di adesso, ma molte, molte di più, neanche a paragone, molte di più. C'ho anche la fotografia proprio con i tre piani, sempre in questa scrivania, però c'era tre piani allungata e c'avevo tutta la linea Drake, la linea dell'FTUA, c'era la linea del 102, la linea del 101 ZD, e poi cosa c'era? Un bel radio c'erano, Michè, forse non so tu quando sei passato. Di questi modelli qua ne avevo tre, cioè avevo il 440, il 430 e il 450 addirittura. Ma non ricordo neanche cosa c'era, ho visto che vi sentite radio diverse, radio nuove, va bene che sia venuto tantissime volte. Però voglio dire dell'FT1 te ne parlo quando era uscito, aspetta, 68, nell'80-81 forse. Avevo nel catalogo, ma non so neanche se ci conoscevamo, se ci sentivamo allora, forse no, forse era Porto Torres. No, ero già a Sassari, a Porto Torres non c'avevo niente, a Porto Torres avevo, mi pare, ero salito col 430, ma l'avevo appena comprato. Poi quando sono arrivato a Sassari ho cominciato a comprare il radio, era tutto andato. Era tutto motore, no, non mi fermava più nessuno. Ti sto dicendo, ne avevo molto di più di adesso, ma HF, no? È che stavo lì a girarmi le balle, capito? E ne avevo un bel. L'FT1 ne avevo fatto cambio con la linea, anzi mi ricordo, si era volato a Carlo, la linea Drake, e me l'aveva fatta avere da uno di Marco Merlo, l'FT1, la linea Drake più soldi l'aveva fatta avere la linea dell'FT1. Ma Tino se ne ricorda, vabbè, Tino veniva più spesso a casa, ma se ne ricorda tutte quelle radio. Sì, a Puglia, io mi ricordo la prima volta che hai trovato anche la linea lì, che siamo andati sui 45 metri a provarla. No, la linea lì che me la ricordo, quello sì. La linea Drake ce l'avevo sino a, non so se l'anno scorso o due anni fa, quello porta giù la volta ce l'ha fatta. La linea Drake sì, la linea Drake è l'ultima che ho fatto, ma per questioni di spazio non si può, perché insomma portava via un sacco di, praticamente la linea Drake completa e tutto il piano di sopra che hai visto che c'ho qua, c'è tutto il 920 più il BGR, e quella era tutta sopra, tutta la linea Drake, un piano così da 1,20 m per 40 largo era tutto per la linea Drake, quindi mi prendeva un sacco di spazio. Allora cercavo di mettere sopra, ma alla fine me l'ho rotto le balle, quindi l'avevo tolta, anche perché quella è una linea molto particolare che se non usi, se non la fai andare, non l'accendi, ti si esauriscono le valvole, così. A me era capitato, però settimane che non la usavo, non l'accendevo neanche, sinceramente. Sono andato ad accenderla, non accendeva neanche. Chiamato a Carlo, è venuto lui con le valvole, ha cambiato le valvole, è accesa, via, alla grande. E tu Tino che vado a mangiarmi una seata? Fate, dai, che io adesso tanto. Vado a fare nanna, che ho mangiato forse 3-4 pizze, non lo so. Io te vado in quel posto dei due, non sono con il malato già da una settimana, e per parlarti di queste cose di mangiare, mamma mia. No, abbiamo una cosa organizzata così, Walter, senza nessun impegno. Ce l'avevo qua a casa le basi e le abbiamo preparate e così ci è toccato mangiarcele. Ma infatti. Quelle rotolate che ho visto a Bastianini un giorno uscendo da Torre erano più di una. Ma tu sei più puntini su lui, su lui devi mettere. Eh no, perché sai, ce li avevo lì, non ce li avevi lì, ne aveva un bel, non lì, non ce n'era un bel. Beh, adesso vado a svuotare il frigo, ci sentiamo dopo. Facciamo vedere perché. Che bastardi. Io vado a mangiare una fiala, dai, riprendete lui, già torno subito, se no se la prendo. No, lo sai perché, Cla? Perché quell'herbrife mi stava rimanendo sullo stomaco e mi sta granchiando un pochino, ecco. Come ti viene l'altro che fa? No, io sono contento, io è che i primi giorni è sempre drammatico quando rinizio, perché chi usa gli integratori per altre cose va bene, però poi quando devi utilizzare tutti per dimagrire o per ingrassare, non è facile comunque io dunque, non è che non lo so. Ma poi non lo avrei fatto, ovviamente, perché poi quelle cose le faccio io. So che ormai le cene per questi due mesi me le devo dimenticare, anzi sì. Ma mi lascia un po' l'amaro sullo stomaco, veramente? Oh, la mazza che ti nervaglia. vabbè. È un bastardo dentro e fuori questo stino, te lo immagini. Quattro bici si ha mangiato. Ciao Rattori, oh è ben condito perché sennò a me non piacciono. Io non riconosco il scuolo di Barese, è chiaro che non so ricordo, no? Faccio la TV anche se non a Vidalda. Ci va con un zambo aristocrat, no, un zambo normale all'inizio. Quella posizione di Barese è allucinante. Se l'ha vi. Beh, signori, dai, che vado a prepararmi la sacca per domani e poi tutto a nanna. Se ci riesco a fare prossimi, divertitevela. Ciao. Ciao, sì, ciao. Ciao Pino, ci sentiamo buona cosa, se conosco. Veglia, guardate quella cosa, caro Walter. No. Vabbè, già tu dirà Franco o Claudio. Ciao. Ehi, Franco, ma avete venuto qua, se ne sarà dimenticato. Claudio sta mangiando seara. Tanto grazie, ciao. Ma non ci sta tirando anche lui. Mai visto? No, ma io sono quasi come non ero più. Ascolta, Walter, tu devi vedere a Claudio che siamo andati insieme, c'ho le fotografie. Un po' netta sembrava. Voglio la banca, ma tu non l'hai visto mai a Claudio così grasso, Walter, sono sicuro che non l'hai mai visto. Forse. Io c'ho la fotografia, capisci che la posso vedere. Vediamo le prove, vediamo. Insomma, vediamo. Anche un grazie a questo dell'RM500, belle veramente. Non mi chiamato che sto mangiando, sentiamo dopo. Mangia, e neanche c'ho questo DAC, io non ho neanche un graffio. Questo DAC, è bellissimo. Bellissimo. Perfetto. Questo è il nuovo 111, non è una bicicletta. Ho paura anche a usarlo. E gli accidenti. E è stato il nuovo il mio di quello. Non ti preoccupare. Sono più nuovo di quello. C'ho anche un Galaxy Plus a proposito. Ma questa è la collezione, stiamo anche a usarla, da certo Guguccio. Ah, non è vecchio, non l'ho messo da 100. C'avrà 26 anni. Nulla è. No, sì, 26 anni, che gli occhi passano. Però, diciamo, io li sto usando. Non so quello che sia. C'avrà di più grandi di me io. Lo so. Quelle di uno dei vecchi mi piacciono, mamma mia. Guarda, la linea quando è funzionale così a quei livelli micidiali, perché te la metti in ascolto, però ha ragione Claudio anche, io non l'avrei data anche non avendo spazio, non l'avrei messa in un mobile, l'avrei accesa come facevo una volta al mese, perché io ci ho sperimentato giù in campagna, avrei fatto solo scendere a cena. Anche se sono sul comune lei mi ha fatto passare i calci. Direi che sono un momento storico, si trova, ma non è difficile da trovare, perché ce ne sono tante. ce ne sono tante, più che effetti 901, 902, 101 ritardi. Il mio 101 ritardi di Michele era stato comprato nuovo, sai, nuovo, ancora con il cartellino, da Beniamino, che è morto, il padre di Romeo. Michele, non ti sento più. Sta mangiando. Tutti in angolo, e nessuno c'è angolo da un'altra parte. Io andavo a lavorare 101 ritardi, quando scendo in campagna lo uso, ma poi lo uso anche qua, perché uscivo bene anche 27. Ah, basta. 101 Zulu Delta. Quelli sono belli lo stesso. Man mano mi sono piaciuti quelli a valvole sempre. Anche a tutti piacciono quelli a valvole. Anche a me. Io a valvole e naturali. Devi sapere usare, sono sempre migliori. Poi ovviamente il transistorizzato, tecnologico più moderno. Se effettivamente a TB è stato il primo apparecchio non valvolare, diciamo, non si vuole usare. No, quello non mi è mai piaciuto, quello lì è di lusso, lo usavo io quando c'era Antonello e lo sapevo usare anche bene l'FT7B e non sono riuscito mai a procurarmi uno. Non sei riuscito, non avevo voluto spendere, è pieno in giro, ce n'era, io ne ho un paio sempre, ma non si accorgerà mai che sono, ma possiamo prendere come esempio. È un gran bel apparato quello pure, ha una gran bella ricezione, ti dirò, per essere un apparato di quel periodo. Però questo è un po' un apparato un po' più serio, però poi Baracchini piace anche il Pace, ti ricordo il Pace, il 1000, l'orologio NSSB, il 1000 è così, anzi del Tark. Sì, Pace, già ne costruono due quegli apparecchi. Ne ho tre, mi pare quelli, tre o quattro, io te li do, li compro, non ci riescono a comprarli. Sono belli, e se no quelli costa, cazzo, quelli sono belli. Cazzo, quelli ne hanno 5-6, 5-6, adesso devo farli controllare, però no, qualcuno non funziona. Com'è bello la Ion Ottavo, ti ricordi quello con la console, con le monopole rotonde sopra, piatto? Io ho avuto la Game Quinta invece, c'erano le macchine quello che, non ricordo, non stavano il più due, cazzo, era una bomba. Non solo, una bomba veramente. L'altro giorno mi ha dato un microfono nuovo, ho imballato, sono in magazzino, non l'ho visto già lì, nuovo, sai cosa dire, mai usato, non nuovo così perché è tutto bello, no, mai usato, imballato. E già me l'ha detto, sono cose belle veramente. Ma bello veramente, anche quello non mi è arrivato del torno del Turner, del Standard 500, imballato, nuovo, mai usato. Il manuale sarà anche tra ancora più bello, perché ha tutte le sue bustine, addirittura la sua batteria di quel periodo dura, c'è tutto, sta la scarica. Ho preso il 15 agli Avigano, cosa ti volevo dire? Lo Standard 500 l'ho avuto anch'io, la verità, e l'avevo regalato, non so quello lì, perché non mi piaceva molto. Ma un po' più tre devo riuscire a procurarlo, e l'ho fatto qua. Ma te lo dare la Gianni 3 più 3, io ce l'ho ma non te lo posso dare, ce l'ho regalato. Tu già me lo faccio dare la Gianni, e l'ho fatto qua. Tu mi chiedi pure a trattarla, che è nuovo nuovo questo apparecchio, è un bel vecchio di data, cioè, gira gira, che tu se non lo usi che faccio il rovino, io lo gioco, è meglio usarlo. Lo so, io sono contento che ce l'hai tu, non c'è problema, io già ne devo, praticamente, perché lui ha detto che voleva la radio uguale alla mia. Allora ho fatto di tutto per farle fare un cambio, capito? Quella che io c'ho in macchina. Con tutto, la mia c'è solo la modifica il Roger Beep, la scheda dei 40 canali e il doppio modulatore. Con l'eco e basta. Invece quello là c'aveva tutto. Ho vinto anche l'affare del VAT, la modifica del VAT, tutto qua. Ma ho speso sui 450 euro per farlo a Napoli. Invece non si è ricordato, detto per sera qua, non mi sono ricordato, ma avevi detto sì, ci sentiamo fine settimana, però non mi sono ricordato, ma va bene lo stesso, non c'è problema, se no gli avrei fatto prendere quella uguale mia, la macchina, capito? E adesso, ma è da pazzi a spendere tutti quei soldi per una LAN 48, cazzo, una roba da chiusa. Cosa vuoi fare? Se questi camionisti sono fatti, cosa vuoi fare? Oh, quello che ho io in macchina, quando me l'ha dato Stefano, aveva speso, mi ha detto Giancarlo, intorno ai 180 euro, 200 euro. Quegli altri 50 ce li ho messi io qui. Sembra che arrivi a 300 quasi, perciò. No, quello là era bello, eh? Nuovo, imballato dentro la scatola, eh? Modificato e messo dentro la scatola. Con il microfono su originale, cavetti originale, tutto originale, schema, tutto manuale, tutto. Per quello, capito, lo volevo far prendere, perché Gianni è pignolo e quindi ha detto, però glielo faccio prendere perché è nuovo. E questo qua, in cambio le dava quello lì che se lo metteva a casa, capito? Ci guadagnava Gianni perché il valore è di più, poi se si rompeva le scatole glielo vendia, non c'erano problemi. Vabbè dai, è andata così, già va bene lo stesso. Capo dell'oggio. Va bene signori, io vi saluto perché sono già le 11, vi guardo un po' di TV e poi non ne vado a mano, ma se no domani mi canta il cucco, che domani sono di mattina e di sera. Di mattina lavoro e di sera sto facendo un corso qua per aggiornamento per questa definizione di contratto che abbiamo, se no non si sale di potenza. Va bene, ciao a tutti, buonanotte, a domani, dai, bye bye. Hey, ciao Claudio, ciao Le Cruz. Ciao, buonanotte, domani ci sentiamo. Sto riguardando l'offerta di Embiid al microfono, non farei sbagliare un poco. Offerte tantissime, già le ho superate però. Segui. No vabbè, no, io ne ho stancato se cubi. Per tutta la sera accesa è una PRS. Vabbè, vai nanna. Già ci sentiamo, ci aggiorniamo domani proprio. Ciao. C'era anche che fai con Aero, quello da Russia, mi sembra di parlare. Riusciamo a ripristinare qualcosina. Vediamo. Potrei entrare Daniele, io. Come, Walter? Daniele sta entrando sempre. Ero grido. Ma guarda, c'erano tutte le varie macchine, lui non ce li piace. Molti di quegli altri sì, io manco per le scarpe, non accendono neanche, secondo me. Perché se no la faccia non te ne frega nulla. Lo so, sono tanti così. Ma guarda, io me ne vado anch'io a nanna, che sono stanco, sono dalle 5 in terra. Va bene. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao, vai, scusi. Ci sentiamo, ciao, correzione.